un incontro un pochino tra esperti addetti al settore, ma comunque aperto a tutti, che coloro che volessero partecipare. L'obiettivo è quello di riflettere tra attori diversi sul tema di quale opportunità e come poterle cogliere rispetto a opportunità di lavoro per i giovani, soprattutto dati dalla transizione ecologica. È un tema di cui si parla in maniera generica già da diversi anni. Noi vorremmo andare un po' ad approfondimento, cioè a capire A, se veramente ci sono delle opportunità, B, queste opportunità per chi sono? Sono per i giovani, sono per esperti più maturi? Quali competenze ci sono? Sono richieste e sono necessarie per poter cogliere queste opportunità? E quali rischi invece determina? E quali potrebbero essere le barriere per gruppi giovanili rispetto alla possibilità di cogliere queste opportunità? Ovvero, ci sono dei gruppi che per loro caratteristiche non hanno le possibilità di accedere a queste opportunità che si vanno a creare? Sono tutti temi sui quali ci vogliamo interrogare insieme al mondo della formazione, quindi il mondo della scuola, enti professionali, mondo delle università, rappresentanti del mondo produttivo, quindi la parte, diciamo, della domanda, rappresentanti del sindacato, in particolare la CGIL sarà presente, e appunto vari operatori, anche associazioni che lavorano più con gruppi di giovani, diciamo, delle periferie più marginali, per capire se tutto questo possibilità, questi percorsi in realtà escludono parte di gruppi che magari potrebbero rimanere più fuori da questi percorsi, ecco. Quindi il diritto al futuro può essere inteso in una duplice veste: da un lato quello che riguarda le giovani generazioni e le loro opportunità di lavoro, ma anche avere un futuro attraverso la transizione ecologica. Esattamente, infatti la riflessione nasce proprio da questo, e nasce anche dalla volontà di diffondere una cultura della sostenibilità collegata a quello che potrebbe essere una rivoluzione che ancora di fatto non c'è in maniera significativa rispetto a un percorso molto più sostenibile, quindi lavori green, quindi sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche senza trascurare gli aspetti sociali e la sostenibilità economica, e che quindi determinano l'inclusività. Questo noi lo stiamo realizzando all'interno di un progetto europeo che appunto si interroga proprio sulle opportunità per i giovani. Il progetto si chiama Greener Future, quindi appunto un futuro più verde, cofinanziato dall'Unione Europea, ma anche attraverso un'iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha cofinanziato proprio un progetto relativo alla dimensione della cultura della sostenibilità. E in particolare uno degli aspetti che vorremmo segnalare, che accanto alla dimensione appunto di transizione ecologica, quindi più legata alla sostenibilità ambientale, anche non tralasciare la dimensione sociale, tant'è che noi presenteremo un lavoro realizzato appunto con il contributo del Ministero dell'Ambiente, che ha a che fare con invece una bad practice, quindi ai noi una pratica negativa che abbiamo ravvisato in vari territori italiani, tra cui anche la Toscana, sul tema invece di sfruttamento lavorativo in agricoltura, quindi un settore che potrebbe compiere tanti passi di svolta verso la sostenibilità dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale, e invece ancora ci sono delle sacche in qualche modo di sfruttamento irregressive. Quindi partiamo da qualcosa che va assolutamente contrastato, per poi dall'altra parte invece promuovere delle occasioni assolutamente positive, che sono quelle verso cui vorremmo orientarci. Visto che hai detto che è anche aperto al pubblico, ti chiedo di dare i riferimenti, dove si svolgerà e quando? Allora, si svolgerà domani, inizierà alle 9:30, avremo 3 ore di discussione e siamo in zona Borgo Panigale. Invitiamo tutti, sul nostro sito trovate tutti i riferimenti per riuscire a raggiungere sul sito di WeWorld, www.weworld.it, per poterci venire a trovare. C'è la possibilità di iscriversi, in ogni caso anche senza iscrizione è possibile accedere. Volevo ricordare anche la presenza gradita della Regione Emilia-Romagna, che ci presenterà anche quello che è il piano della regione, in particolare per sostenere il lavoro green e per quanto riguarda anche i piani formativi che dovrebbero andare a sostenere questo passaggio e questa transizione ecologica. L'incontro è interessante perché sarà molto interattivo, quindi anche chi vi partecipa avrà l'opportunità di fare domande, fare commenti, insomma esporre il proprio punto di vista e attivare una vera discussione con insomma i relatori. C'è una importante ricchezza, diciamo, di diversi punti di vista e quindi può essere un'occasione proprio di riflessione, che è quello l'obiettivo per cui abbiamo organizzato questo appuntamento.